Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e siamo in diretta oggi e anche domani da Napoli. Oggi siamo all'Università Telematica Pegaso, Palazzo Zapata, Salone degli Specchi, Piazza Trieste Trento. Domani invece Passione Sud, l'inizio di questo viaggio che Radio 24 sta compiendo già da una settimana nei GR e poi farà anche con i programmi Focus Economia, tutti convocati, Cuore Denari, si sposterà invece sempre a Napoli, ma si sposterà nella parte che vede alla Fiera d'Oltremare, Fiera Napoli, Mostra d'Oltremare, una manifestazione anche del mondo del commercio che ci interessa particolarmente. Perché Passione Sud? Poi arriviamo ai temi della giornata economico-finanziaria. Passione Sud perché la passione si sente, ed è il nostro slogan, la passione si deve sentire anche al Sud, cercando di uscire dagli schemi e dagli stereotipi che troppo spesso accompagnano le descrizioni del nostro mezzogiorno. Chiaramente ce ne occupiamo nei GR quotidianamente quando vi sono, ahimè, notizie di cronaca nera, di malaffare e di scandali, ma il Sud è anche, vuol dire anche realtà imprenditoriali importanti, vuol dire tanti Sud, perché delle volte si compie l'errore di uniformarlo in un'unica descrizione. La Campania non è la Puglia non è la Calabria non è la Sicilia, e noi compiremo un viaggio che oggi inizia ma che andrà avanti nelle prossime settimane proprio in queste regioni, quindi dopo la Campania arriverà la Puglia, poi la Sicilia, la Calabria, nelle tappe principali e nelle città principali di queste regioni. Ce ne occuperemo oggi in particolar modo anche perché è in missione qui a Napoli il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, che dovrebbe raggiungerci tra circa mezz'ora, 40 minuti, dove sta guidando una delegazione di oltre 600 imprese campane e provenienti da paesi europei, una missione B2B, come si chiama in gergo, di incontri business to business, che durerà fino a domani, per identificare opportunità commerciali e di cooperazione tra imprese, oltre alla possibilità di fare investimenti in Campania. Chiaramente questo sarà il tema d'approfondimento assieme alle reazioni che già oggi riscontriamo alle misure annunciate ieri dal neo premier Matteo Renzi. Varie reazioni anche sul fronte europeo, resta fondamentalmente il tema delle coperture, anche perché poco fa il ministro del lavoro Poletti ha detto che manca 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga, e quindi su questo i dati, va detto in maniera molto chiara, non sono ancora presenti. Dove arriveranno le coperture, se basterà l'aumento della tassazione sulle rente finanziarie, se veramente Cottarelli potrà trovare invece che 3 miliardi, 7 miliardi, non sono bruscolini, e quindi su questo non il dubbio, ma la necessità di vederci chiaro è d'obbligo. Su questa intervenuta, lo dico così, iniziamo subito con la cronaca, anche oggi l'Unione Europea, c'è stato un po' di fraintendimento questa mattina perché c'era una banca centrale europea nel suo bollettino mensile che sottolineava come l'Italia non stesse compiendo progressi sul deficit chiedeva a Roma di agire sul disavanzo di far scendere ulteriormente il debito. Replica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non era riferito alle misure annunciate ieri perché era un bollettino già programmato, questo è vero, in effetti non era un bollettino di risposta alle misure di Renzi, mentre quella che è un primo commento alle misure annunciate ieri dal Presidente del Consiglio è arrivato da Bruxelles, dove il portavoce del Commissario Europeo agli Affari Economico Monetari, Olli Rehn, ha detto: bene le riforme in Italia, accogliamo con favore le riforme, ma le valuteremo non appena avremo i dettagli legislativi, ricordando l'importanza di rispettare le regole del patto di stabilità e quindi il pareggio in termini strutturali, ed essere in regola con il debito. Il commento sulle misure sul lavoro, le misure annunciate sul lavoro, detto Bruxelles, sono appropriate vista l'elevata disoccupazione giovanile in Italia. Per quello che riguarda i passaggi ulteriori, oggi Renzi continua a spingere sul piano cosiddetto shock, ha avvertito anche il Parlamento: mi sono impegnato a mettere entro il 1° maggio 10 miliardi di euro nelle buste paga di 10 milioni di italiani e lo farò. Anche oggi le agenzie molto hanno ripreso la dichiarazione, per cui casomai Renzi è disponibile ed è pronto a ricorrere anche allo strumento del decreto legge. Parleremo delle varie misure, come sempre i numeri per intervenire sono 349-238-6666 e la pagina di Focus Economia su Facebook, parleremo anche del nostro Sud, ma come sempre a inizio programma le notizie in breve. Partiamo dalla borsa, meno 0,50% Milano in questo momento, Parigi perde un punto percentuale, Francoforte un punto e mezzo, Milano quindi va meglio di altre borse europee, la Popolare Emilia Romagna più 5%, Autogrill più 4,60%, la Pop Milano più 4%, Enel più 1,90%, Mediobanca più 1,70%. Negativa invece Atlantia, meno 3%, Buzzi Unice meno 3%, World Duty Free meno 2,30%, Unipolsai meno 2% come Tod's e Unicredit, UbiBank meno 1,80% come Enel Green Power e Mediaset, l'1,70% lo perdono Jux e Salvatore Ferragamo, di nuovo in flessione oggi il settore del lusso, Mediolanum meno 1,5%, G-Tech pure, CNH Industrial meno 1,5%, Tenaris e Prismian meno 1,20% come Snam Rete Gas. L'euro torna a quota 1,39 e anche sopra 1,3931 sul dollaro, mentre dagli Stati Uniti arriva la notizia che le richieste di sussidi alla disoccupazione sono ai minimi da novembre, è un dato migliore delle stime degli analisti che conferma che l'America con le sue politiche espansive sta uscendo in maniera rapida, no, ma sicuramente uscendo dalla recessione. Brutte notizie invece dall'Irlanda, dove il PIL è tornato a calare nel quarto trimestre del 2013, meno 2,3% contro attese di un più 1%, e anche su base annua il calo dello 0,7% contro un'attesa di un aumento del 2,5%. Lo scenario deflattivo attanaglia anche l'Irlanda, ossia i prezzi sono in calo dello 0,1%, mentre in Grecia continua a salire la disoccupazione. Nel quarto trimestre del 2013 ha toccato il 27,5% della popolazione. Pensate che in Grecia il 72% dei disoccupati sta cercando lavoro da oltre un anno. I più colpiti, come sempre, i giovani, si arriva quasi al 60% di disoccupazione in Grecia nella fascia 15-24 anni e siamo quasi al 50% di disoccupazione in Grecia tra i 25 e i 29 anni. Spostiamoci sull'Italia, dicevamo delle misure, le abbiamo ascoltato ieri il Premier Matteo Renzi in conferenza stampa, servono appunto le coperture per i 1.000 euro netti all'anno in più per chi guadagna meno di 15.000 euro, in realtà poi benefici a scalare fino ai 25.000 euro, il taglio del 10% dell'IRAP, smaltimento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione, lì è più facile perché farà da garanzia la cassa depositi e prestiti e poi lo sblocco di 3,5 miliardi di euro nei bilanci dei comuni per avviare le operazioni di edilizia scolastica. Le ipotesi di copertura, dicevamo 7 miliardi dalla spending review, anche se Cottarelli non è così d'accordo, nel senso che ieri ha detto che potrebbero arrivare 3 miliardi di risparmi se si partisse adesso, la riduzione degli interessi sul debito sono altri 3 miliardi di risparmio da uno spread che ci auguriamo si mantenga a questi livelli. L'IVA derivante dai pagamenti della pubblica amministrazione, nel senso che le imprese che poi ottengono i pagamenti pagano l'IVA, 1 miliardo e 6. Il deficit dal 2,6% stimato al 3% permetterebbe di avere un altro margine per circa 6 miliardi, mi sembra un po' tanto 6 miliardi, però sono stimati circa 6 miliardi e poi 2,5 miliardi dovrebbero arrivare dall'aumento della tassazione delle rendite finanziarie. Ecco, su questo occorre fare alcune precisazioni, anche se appunto non abbiamo in mano il testo. Da quello che si è capito, l'aumento della tassazione riguarderebbe i prodotti finanziari, eccezione fatta solo per i titoli di Stato, per cui anche i conti, i depositi, i fondi comuni di investimento. A questo punto, considerando anche la mini patrimoniale che già grava sui risparmi, perché siamo al 2 per 1000 delle somme investite, la tassazione complessiva sui redditi da risparmio salirebbe ben oltre il 30%. facciamo un esempio concreto, con 100.000 euro con un rendimento di 2.000 euro all'anno, cioè quindi 2% di rendimento, un rendimento assolutamente diciamo, modesto, avrebbero di tassazione a questo punto 200 euro, il 2 per 1.000 dei 100.000, poi altri 520 euro, il 26% dei 2.000, in tutto 720 euro su 2.000 di guadagno, che equivalgono a un carico fiscale del 36% e lascerebbero al risparmiatore 1.280 euro. Le reazioni, abbiamo ascoltato ieri quelle anche dei sindacati, oggi il presidente della piccola industria di Confindustria, Alberto Baban, al microfono la nostra Anna Marino, dice vabbè, le prime misure fiscali sono l'inizio di un dialogo che comunque riteniamo positivo. C'è un primo accesso di positività, quello che piace è il dinamismo, il fatto non siamo abituati a politica che agisce e decide. Vediamo di riuscire ad elaborare anche questo pensiero. Noi ci aspettiamo che ci sia un'attenzione particolare al sistema impresa, alle imprese. Siamo convinti che è l'impresa che crea lavoro, quindi riuscire ad agevolare l'impresa è l'unico sistema per ricreare lavoro. Consistente no, io credo che sia un inizio, quindi se è anche un inizio di dialogo io lo ritengo positivo. E per quanto riguarda appunto le imprese, l'accesso al credito in questi mesi sta diventando sempre più critico, questo potrebbe essere una spinta diciamo più ottimistica? Potrebbe essere un inizio che rielabora quali siano le posizioni per riuscire ad avere più credito, quindi restituire credito significa anche dare più equilibrio alle imprese. Siamo in un momento di passaggio, siamo in un momento delicato dove le banche denunciano continui aumenti di insolvenze, quindi il credito non è solo favorire il sistema impresa ma poi restituire anche credibilità al nostro sistema. Quindi dare alle famiglie può arrivare anche alle imprese? Sicuramente la restituzione di capacità di acquisto stimola i consumi. Bisogna che il sistema ritorni ad essere positivo, quindi abbiamo bisogno di forti motivazioni. E per quanto riguarda diciamo, le tempistiche di questo governo, siete ottimisti? Pensate che possano essere rispettate? Un governo che agisce è un governo che ci piace. Un governo che agisce nella direzione giusta è un governo che dialoga e quindi ci attendiamo di elaborare insieme il pensiero e di dare ancora più opportunità alle imprese. Ecco, si è parlato del grande assente, il Sud, secondo lei? Io penso che il Sud ha la necessità di ritornare protagonista e l'Italia si salva tutta insieme, non un pezzo d'Italia. Per quanto riguarda le start-up, il tema di oggi, c'è un'agevolazione maggiore secondo lei nei nuovi provvedimenti per mettere in piedi delle imprese un po' più velocemente, ma soprattutto per dare più non solo iniezioni di soldi ma anche seguire di più questo sviluppo industriale? Noi siamo convinti che l'Italia, l'italiano ha una forte predisposizione a intraprendere, quindi ha la volontà di creare imprese. Agevolare il sistema dell'impresa significa dare certezza all'impresa. Quindi non è solo una questione di start-up, ma riuscire a capire quanto queste piccole imprese possano crescere. Noi non siamo solo attenti a generare nuove imprese, ma vogliamo che queste non muoiano facilmente, ma che possano crescere. Le piccole e medie imprese sono praticamente il 90% degli iscritti a Confindustria. Il peso ce l'hanno anche nel sistema industriale italiano. Secondo lei cosa hanno bisogno? Di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di riuscire a far capire che non è più giusto che piccolo sia bello, ma allo stesso tempo non è vero che piccolo sia essere fuori dai mercati. Bisogna entrare nel concetto che esistono degli ecosistemi, esistono delle capacità di riuscire a interagire con questi ecosistemi. Quindi piccolo non è più una questione dimensionale, ma è una questione di capire in che nicchia sei inserito e se la tua dimensione ti consente di accedere ai mercati, siano essi locali piuttosto che internazionali. E che cosa chiedete a questo governo per accelerare questi processi? Chiediamo che ci sia una spinta forte per riuscire a ritornare a dare emozioni, riuscire a tornare a dare motivazioni. Una questione di un patto di lealtà. Dobbiamo chiedere correttezza, chiediamo un governo che paghi i suoi debiti, un governo che ritorni ad essere efficiente e che compri. Ricordiamo che comunque il 53% del PIL delle nostre aziende italiane è fatto con un cliente, un'azienda che si chiama governo, che compra poco e paga male. importante quanto diceva il presidente della piccola industria di Confindustria Baban anche sul nostro sud, cioè l'Italia è una sola o riparte tutta o non riparte proprio, questo è lo spirito del nostro viaggio, della nostra iniziativa Passione Sud. Ancora due notizie però che riguardano il resto del paese. Oggi i dati sulla cassa integrazione in deroga sono impressionanti, più 55,5%, la cassa integrazione ordinaria è calata del 27%, ma a febbraio è esplosa la cassa integrazione in deroga, ecco perché poi il ministro Poletti dice che manca 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga nel 2014. Ancora le domande di disoccupazione e mobilità presentate nel mese di gennaio hanno fatto più 10% rispetto a un anno prima, dove già non navigavamo nell'oro, e anche questo lo deve dire lunga sulla difficoltà che ha tutto il paese sul fronte occupazionale. Mentre chiaramente i consumi non ci sono, che ne pensino i tedeschi, l'inflazione è ferma a febbraio allo 0,5%, è il minimo dal 2009, addirittura su base mensile siamo già in deflazione, meno 0,1%, frenano anche i prezzi di carburanti e del cibo fresco, che è la cosa che a me sorprende di più. In alcune città del paese siamo già in deflazione, è il secondo mese che Venezia ha come capoluogo regionale ha i prezzi in calo anche sul mese precedente, e già aveva avuto un gennaio con un meno 0,2. Anche Livorno ha i prezzi in calo, meno 0,4%. La Banca Centrale Europea ha confermato anche oggi che se la deflazione venisse confermata sarebbe pronta ad agire. Allora 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, e iniziamo, riprenderemo poi il tema dopo le 18, ma iniziamo questo viaggio da Napoli, non a caso la vecchia capitale del Regno delle Due Sicilie, ma Napoli, una Napoli in chiaroscuro, ce l'ha raccontata in questa settimana la nostra Raffaella Calandra nei GR delle 8 e delle 13, e la racconterà anche domani. Una Napoli che vede punte di eccellenza in vari settori, tra l'altro faccio notare settori forti del Made in Italy, ma che vede poi un vuoto da riempire nel mezzo. Mi è arrivato subito un messaggio che leggo volentieri, sono gli ingegneri della Micron che sono in esubero e stanno manifestando per il futuro della microelettronica in Campania, e dateci voce, noi la voce ve la diamo, dopodiché le soluzioni in questo momento non le abbiamo. Allora Passione Sud. Leggere le cifre che sto per leggere verrebbe voglia di mollare il colpo, nel senso che sono nei primi 9 mesi del 2013 quasi 100.000 le imprese del nostro mezzogiorno che hanno chiuso, ad un ritmo di 366 chiusure al giorno, 2.500 le imprese fallite, e si sono perse, se si fa il saldo tra le imprese che hanno aperto e le imprese che hanno chiuso, dal 2007 al 2013 il mezzogiorno ha perso qualcosa come 30.000 imprese, ma la cosa impressionante è la progressione di questa emorragia. Praticamente la metà di queste 30.000 imprese si sono perse nei primi 9 mesi del 2013 come saldo negativo, a dimostrazione che le politiche del 2012 sono state estremamente recessive, hanno aumentato la recessione già in atto. Lo dico a chi continua anche a scrivermi dando la colpa dell'euro, all'euro della crisi. No, è la gestione dell'euro, dell'Europa, che ha prodotto politiche recessive. L'euro non c'entra nulla, continuiamo a dirlo. È come confondere la febbre con il termometro, o dare la colpa della febbre al termometro. Ancora abbiamo i dati della Svimez, che da anni fotografa l'andamento dell'economia del nostro mezzogiorno, un PIL che nel 2012 è calato del 3,2%, e quindi un punto in più rispetto al resto del paese, 10 punti percentuali di ricchezza bruciati dal 2007 al 2012. Dicevo, guardando così la situazione, viene da mettersi le mani nei capelli. In realtà, quando poi i dati vengono scorporati e si va a guardarli con maggior dettaglio, ci si accorge che i casi di eccellenza restano, e ci si accorge che questa crisi ha avuto un effetto livella, ahimè, nel paese, nel senso che le difficoltà e le criticità che riscontriamo nel nord, nel nord-est, nel nord-ovest, nel centro sono identiche. Quindi burocrazia, eccesso di tassazione ce la fanno le imprese che esportano, con la, a mio avviso, l'aggravante qui che 5 regioni, lo raccontavamo 2 giorni fa, cioè tutte le regioni del nostro mezzogiorno, non riescono a spendere un totale di 2 miliardi e 300 milioni di euro di fondi di coesione, che sarebbero oro in questo momento di risorse inesistenti. Abbiamo chiesto alla collega del Sole 24 Ore, Vera Viola, che segue la cronaca da Napoli per il giornale, di tracciare una scheda che poi abbiamo fatto registrare con i punti di snodo in questo momento di Napoli, una Napoli che, come racconta Vera Viola, 2 anni fa, in occasione dell'America's Cup, aveva visto anche la speranza di un risorgimento campano. Anni fa le vele della Coppa America sfilavano davanti al litorale, diventato per l'occasione platea di uno splendido teatro. La spazzatura era stata rimossa dalle strade. Si parlava di vivibilità e di sviluppo. Sembrava che a Napoli stesse iniziando una nuova primavera. Un anno fa il crollo di un palazzo sulla riviera di Chiaia e a poche ore di distanza l'incendio di Città della Scienza segnarono come uno spartiacque tra il tempo della speranza e quello della disillusione. Oggi la città sembra andare alla deriva. Il comune in stato di predissesto ha rischiato e non ancora scongiurato il fallimento, con un debito di 1,2 miliardi circa. E i piani di sviluppo? Napoli e la regione hanno scommesso sui grandi progetti per spendere 1,6 miliardi di fondi europei. Ma fatta eccezione della metropolitana, vero fiore all'occhiello, hanno celebrato solo poche gare. Molte vanno deserte. Mentre si assiste alla lenta agonia dei progetti per Bagnoli, e il porto resta in attesa di una governance che le istituzioni locali non riescono a esprimere. E persino il San Carlo, altro mito mondiale, viene commissariato. Città della Scienza attende la ricostruzione. Ringrazio Napoli, ha detto Paolo Sorrentino sul palco di Los Angeles, dove insieme a Tony Servillo hanno ancora portato la campagna migliore sotto gli occhi del mondo. Ringrazio Napoli, vorrebbero poter dire anche molti altri giovani a cui non è dato in questa Italia, in questo Sud, in questa Napoli, trovare un lavoro. E vedi Napoli, vorrebbero dire molti cittadini ai loro amministratori locali, per chi conosce il detto. Allora, Alfonso Ruffo è il direttore del Denaro, perché non tutti sanno che Napoli ha una lunga tradizione anche di un giornale economico finanziario cittadino, 24 anni se non ricordo male. E alziamo il volume per favore anche di Alfonso Ruffo, grazie. Dicevo, Vera Viola è stata molto incisiva a mio avviso nell'immagine, cioè 2 anni fa si pensava a un possibile riscatto. Dalla scheda che abbiamo appena ascoltato emerge anche una, non voglio andare diciamo contro il sindaco necessariamente, però insomma emerge una insipienza, per non dire incapacità, dell'amministrazione locale nel varare quello che può fare l'amministrazione locale, cioè i grandi progetti di sviluppo. Vorrei, poi arriviamo ai settori di eccellenza, però su questo Alfonso, perché tutto si è bloccato dal vostro punto di vista? Beh, innanzitutto il dato preoccupante davvero, che non era messo tra quelli critici, è che noi abbiamo una disoccupazione giovanile che si avvicina al 50%. Penso che questo sia il dato più preoccupante, perché è il dato che cancella un pezzo di futuro, perché il 50% dei giovani che non trovano lavoro e che sono costretti molto spesso ad andare via è il problema dei problemi, è la sintesi delle cose che hai raccontato e che ha raccontato Vera e gli altri amici del Sole. E siamo arrivati a questo per una serie di politiche, probabilmente abbiamo preso sotto gamba troppe cose. La nostra incapacità di utilizzare i fondi europei per riforme strutturali è la principale, ma questa incapacità è dovuta in parte alla classe dirigente e alle istituzioni, in parte è dovuta alla difficoltà oggettiva di utilizzare questi fondi, di spendere questi fondi, perché c'è dall'altra parte, c'è la burocrazia europea che richiede delle procedure che sono davvero complicate da seguire, e il combinato disposto, come si dice, di queste due cose rende molto ma molto complicato l'investimento. Il problema del Mezzogiorno è anche un problema di classe dirigente, come ormai viene molto ma molto in evidenza. Sì, io adesso senza voler essere troppo polemico, ma mi chiedo perché con tutti i corsi, le consulenze, la formazione in cui si è abbeverata anche la spesa della pubblica amministrazione in maniera delle volte anche dubbia sugli esiti, non si sia fatto un vero corso per formare i dirigenti locali, regionali e comunali su come al meglio utilizzare i bandi e i soldi messi a disposizione dell'Europa. Probabilmente hai ragione tu, c'è una complicazione, c'è una burocrazia europea, lo sappiamo, però bisogna anche andare oltre e formare parte dirigente non tanto per la fiera, la sagra, la consulenza di comunicazione, ma anche e soprattutto per come ottenere questi soldi. Se no, 2 miliardi e 6, che sono una cifra immensa per questi tempi, non verranno mai utilizzati, e sappiamo cosa succede poi in Europa, questi soldi vengono ridistribuiti a altre aree che sono concorrenziali, perché hanno bisogno anche loro di fondi di aiuto in Europa, quindi oltre al danno anche la beffa. Dimmi una cosa, perché poi ne parleremo con gli altri ospiti. Io citavo però casi di eccellenza a Napoli, perché quando noi guardiamo a Made in Italy pensiamo in questo momento soprattutto alla moda e all'agroalimentare e alla meccanica, sì, oltre che l'automotive e il legno arredo. Beh, insomma, sulla moda, il cosiddetto capo spalla maschile, sulla parte della meccanica, o meglio, in questo caso voi avete una grande tradizione di shipping sia per cargo sia con MSC Crociere e con Costa di turismo, ma anche sul fronte alimentare, cioè i casi di eccellenza qui non mancano. No, sono moltissimi, la Campania e il Mezzogiorno sono pieni di eccellenze. Il problema è che tra un'eccellenza e l'altra c'è il vuoto, bisogna colmare questo vuoto. Nel capospalla maschile, tu accennavi, noi abbiamo Attolini, Keaton, Blasi, Isaia, ma Marinella, che è il re delle cravatte, Hermont & Blaine, Finamore, Tramontano, insomma, sono moltissimi marchi che il mondo ci invidia e sono tutti marchi che vendono nel mondo. Nell'alimentare il caffè Kimbo, Ferrarelle, Lete, l'olio Dante, la pasta di Gragnano che è celebrata nel mondo, ma il pomodoro di San Marzano, la cioccolata di Gaioden, abbiamo tutta la filiera dei vini, no? Feo di San Gregorio, per dirne qualcuno, il Mastro Berardino. Siamo forti nell'automotive, come tu raccontavi, c'è la Fiat, ma c'è il grande fornitore Adler che fattura 1 miliardo ed è in tutto il mondo. Abbiamo l'aerospazio, la difesa, abbiamo Getra per l'energia. Insomma, le nostre eccellenze sono davvero tantissime. Ecco, che cosa manca però per fare delle eccellenze, per fare di una macchia di leopardo, diciamo, un unico colore? Perché la sensazione è che queste eccellenze si muovono e vivono in maniera isolata rispetto a un contesto, o meglio, per dirla come dicono quelli che hanno studiato, che manchi la pipeline, la filiera complessiva che va dalla media o grande impresa fino a tutti i fornitori, avendo poi una filiera del valore che si muove su questo. È proprio così. Quello che manca è il filo conduttore, il tessuto connettivo, e quello bisogna crearlo. Ci sono dei tentativi di creare dei distretti o di creare anche delle reti, di migliorare la fornitura, perché c'è un problema di fornitura. Grandi imprese probabilmente potrebbero andare meglio e potrebbero alimentare una subfornitura, una fornitura sul territorio piuttosto che rivolgersi altrove. Il lavoro da fare è tantissimo, bisogna cominciare a realizzarlo. Di nuovo in diretta da Napoli, vi ricordo che siamo in piazza Trento Trieste, sala degli specchi, Università Telematica Pegaso. Faremo la borsa fra pochissimo, -0,91% Milano in chiusura, -1,30% Parigi, -1,60% Bruxelles, -1,80% Francoforte, quindi anche oggi Milano, seppur in calo, meglio di altre borse europee. Però ci hanno raggiunto qui nei nostri studi, da un lato il vicepresidente della Commissione Europea responsabile per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Che già ricordavamo guida oggi una delegazione di 600 imprese tra campane ed europee per incontri B2B che si svolgeranno anche domani, per capire dove si possono realizzare concretamente opportunità commerciali e di cooperazione per le imprese. Grazie anche al vicepresidente dell'Unione Industriale di Napoli, Ambrogio Prezioso, buonasera anche a lei. Buonasera. E al presidente della Regione Campania, o governatore come si dice adesso, Stefano Caldoro, buonasera anche a lei. Buonasera. a cui chiederò alcune cose di cui abbiamo appena discusso, tra cui questo scandalo del fatto che 5 regioni in Italia non riescono a utilizzare i fondi di coesione europei. Stiamo parlando in tutto di 2 miliardi e 260 milioni di euro. Nel caso specifico, alla Campania le risorse assegnate dallo Stato per oltre 2 miliardi e 4, beh, quasi un miliardo non è stato utilizzato. Però vorrei partire intanto dal vicepresidente della Commissione europea, per restare sul tema di apertura, che erano le varie reazioni della Commissione europea alle misure annunciate ieri dal Premier Matteo Renzi. Volete vedere le coperture, ma lei personalmente che idea si è fatto? Io mi sono fatto un'idea positiva sulla volontà di intervenire soprattutto sulla pressione fiscale e sul grande problema del ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Bisogna vedere se questa buona volontà si trasformerà in azioni concrete. Mi riferisco alla questione che io seguo direttamente per responsabilità, quella del ritardo dei pagamenti. Bene dire paghiamo tutti i debiti pregressi che la pubblica amministrazione ha con le imprese, e questo significa accogliere le sollecitazioni, a volte anche pressanti, a volte anche dure, che ho fatto all'Italia e a tutti i paesi dell'Unione su questo argomento. Però avrei preferito un decreto legge. La decisione di procedere con un disegno di legge con un avvio un po' tardivo nel tempo, cioè far passare altri 3 o 4 mesi, vedere se il disegno di legge verrà approvato dal Parlamento, significa che altre imprese purtroppo muoiono nel frattempo. Avrei preferito, da questo punto di vista, al di là della volontà, di fare una scelta più incisiva. Questo è un problema che va affrontato con durezza e con fermezza. Bisogna essere chiari: c'è chi non vuole pagare i debiti pregressi, c'è un apparato burocratico che si oppone, si opponeva ai tempi di Tremonti, si opponeva ai tempi del governo Monti, di Grilli, si opponeva ai tempi di Saccomanni, si continua ancora ad opporsi oggi. Bisogna essere molto chiari, cioè la politica deve decidere, bisogna imporre il pagamento dei debiti pregressi, come bisogna far rispettare, imporsi per far rispettare la direttiva europea sul ritardo dei pagamenti, perché questo significa realizzare la manovra economica perfetta. Ecco, visto che sull'ipotesi coperture già si parla di un deficit dal 2,6 al 3%, voi temete il fatto che Renzi, anche diciamo, per un motivo comprensibile, non so se corretto, ma comprensibile, cioè dare lo shock all'economia, possa non rispettare il 3%? Io, per quanto riguarda il patto di stabilità, ho una visione non burocratica. Non credo che la Commissione europea sia un computer che legge un dischetto che gli arriva e dice il dischetto va bene oppure va male. Noi dobbiamo interpretare politicamente le richieste che arrivano e vedere se la richiesta è all'interno del patto di stabilità o meno. Cosa voglio dire? Che ci sono dei fattori attenuanti che possono essere scomputati dal conto. Lo abbiamo fatto per Francia e Spagna. Per Francia e Spagna, ma lo abbiamo fatto anche per l'Italia per quanto riguarda i debiti della pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012. Il 18 marzo del 2013 il vicepresidente Ren ed il sottoscritto abbiamo firmato una lettera dove si diceva che tutti i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese potevano essere pagati senza violare il patto di stabilità, perché questo pagamento rappresentava un fattore attenuante del patto di stabilità. Questo quindi voleva dire che non si sforava il tetto del 3% per l'80% dei debiti, cioè quelli a debito, mentre il 20% dei debiti, quelli a deficit, dovevano essere spalmati 2013-2014 e almeno luglio 2015, perché dal 1 luglio entra in vigore il fiscal compact, quindi sarà più difficile pagare i debiti della pubblica amministrazione. Ecco, questo si può fare. Noi abbiamo tolto la foglia di fico, non c'è nessuna scusa che europea che le amministrazioni pubbliche possono accampare per non pagare quello che devono alle imprese. Allora, vicepresidente Tajani, ma anche il vicepresidente degli industriali e il governatore, restate con noi, abbiamo il traffico, poi vorrei invece andare sui temi della Campania, anche perché siete reduci in questi minuti da una visita a Pompei. Non è crollato niente oggi, mi sembra, italiani, no? Speriamo invece che Pompei possa ma su questo vorrei anche capire perché del grande progetto Pompei, 105 milioni di euro stanziati dall'Unione Europea, siamo riusciti a spenderne solo lo 0,56%. Diretta con Focus Economia da Napoli. Allora, governatore Stefano Caldoro, subito la parte che riguarda i fondi europei che non riuscite a utilizzare, ma anche i fondi che citavo prima della legge 35, che sono quelli a cui faceva riferimento anche il vicepresidente Tajani, cioè quelli dati, messi a disposizione dalle regioni, dal ministero per le regioni per pagare i debiti della pubblica amministrazione. E qui siamo a 2 miliardi e 2 complessivamente. Per quello che riguarda la campagna, lo Stato vi ha dato 2 miliardi e 4, di cui 1 miliardo quasi, 940 milioni non utilizzati. Perché in un periodo di vacche magre non riuscite a spendere questi soldi? Allora, intanto preciso, e bene farlo, che questi non sono soldi che, o risorse che dà lo Stato, è un prestito che fa la Regione, che ripaga BTP a 5 anni, quindi intanto precisiamo che non è un regalo, è un prestito per pagare il debito commerciale. Allora, noi abbiamo in cassa 2 miliardi e mezzo. Abbiamo pagato 1,5 miliardi nell'arco di 30 giorni e siamo bloccati per l'altro miliardo perché il patto di stabilità ci impedisce di spenderli. E non quello che ricordava il presidente Tajani, mentre l'Europa è riuscita a metterlo fuori patto, nel senso che ha dato la possibilità al paese di non conteggiare nei limiti, per una ragione, per una regola stupida, spesso lo Stato fa stupidaggine, scrive leggi che non permettono poi agli enti locali, perché gli impedisce il tetto di pagamenti, ti dice tu non puoi spendere più di tanto l'anno, quindi ti possono dare tutti i soldi che vuoi e alla fine te li tieni in cassa. Noi teniamo 1 miliardo in cassa, abbiamo chiesto più volte al governo, ho visto che il Presidente del Consiglio Renzi ha detto in questi giorni e oggi le agenzie di qualche minuto fa battono proprio una notizia che dicono bisogna allentare il patto se no non si possono pagare i debiti alle imprese. È un vero paradosso, quando hai anche i soldi in cassa non puoi pagare alle imprese per questa regola molto rigida e devo dire applicata malissimo del patto di stabilità. Io ho fatto una proposta al governo già allora, vedo che oggi la riprende, un buon consiglio, fate come il modello spagnolo. La Spagna ha centralizzato il debito e lo ha dato a tutto il territorio secondo il debito delle imprese. Noi l'abbiamo voluto allocare come prestito agli enti locali. Ognuno di noi ha un tetto, più di quello non puoi spendere e quindi quando hai soldi non puoi dare alle imprese. Quindi è un problema da risolvere subito, perché io questo miliardo lo voglio spendere da ieri. Siamo in grado, noi teniamo la tabella di tutte le imprese che devono avere i soldi, noi siamo, le fatture le paghiamo subito, 1,5 miliardi l'abbiamo pagato nell'arco di 35 giorni, quindi siamo in grado, potevamo farlo anche ieri se ci danno l'autorizzazione a spendere. Ecco, ci torniamo dopo il GR perché abbiamo pubblicità e GR24, però in una battuta, sul fronte invece dei fondi europei, prima che voi arrivaste si diceva con il direttore del denaro, ma insomma, con tutti i soldi che le regioni italiane e anche la campagna hanno speso per consulenze, corsi di formazione, ma formare dei manager della pubblica amministrazione che sappiano utilizzare fino all'ultimo euro i fondi che l'Europa mette a disposizione, non fare la corsa agli ultimi minuti per avere dei progetti che in qualche modo li giustifichino, che spesso hanno poca efficacia se non alimentano anche corruzione e clientelismo, non è veramente possibile? Sì, è possibile, tra l'altro riguardiamo un attimo, le regioni non spendono i fondi europei, li programmano. Quindi non siamo soggetti attuatori, se c'è un ritardo a Pompei, per esempio, facciamo un esempio pratico, allora l'Europa è stata velocissima, la regione è stata super veloce perché questi sono fondi regionali, sono fondi dell'Europa ma la regione Campania, quindi non sono fondi dell'Europa così, sono fondi assegnati alla regione, noi li abbiamo destinati per Pompei per 105 milioni di euro, lo Stato non riesce a spenderli, cioè il soggetto attuatore, quello che deve fare le gare, deve fare i lavori, non è in grado di spendere. Questo vale per l'autorità portuale, vale per i comuni, vale per l'ANAS, vale per le ferrovie, sono loro i soggetti attuatori, quindi loro devono riuscire a spendere in tempi rapidi le risorse, però vediamo le performance. Noi abbiamo costruito nella regione Campania in 3 anni, nei primi 3 anni 3% di spesa, secondo i 3 anni il 42% di spesa, c'è una certa differenza, quindi si può accelerare la spesa. Alle 18:07 riprende Focus Economia in diretta da Napoli, la prima tappa del viaggio Passione Sud, come giustamente ci faceva notare prima una delle persone presenti in sala. un Sud che è anche scomparso dall'agenda politica, e va detto che quando abbiamo iniziato con il direttore del Denaro ricordando come questa crisi abbia livellato il Paese, ha livellato il Paese nel senso che i problemi sono uguali per la piccola e media impresa che opera nel centro-nord o nel centro-sud, però oggettivamente la crisi ha fatto scomparire, diciamo, l'emergenza sud, che a me non piace come termine perché non c'è cosa più strutturale in questo paese dell'emergenza del sud, però è vero che anche dall'agenda politica di ieri e dalle indicazioni che sono arrivate di sud come caso specifico non si parli più. Però vorrei concludere con il governatore della Campania Stefano Caldoro, perché lo dico, perché sono arrivati molti messaggi che dicono ma insomma non è possibile che la regione non abbia colpe, ci scrivono anche molti imprenditori che hanno tentato di collaborare con dei bandi pubblici, hanno sperimentato in prima persona la, diciamo, incapacità, impreparazione di alcuni funzionari. Non voglio tornare su un tema che ahimè purtroppo è diventato un cavallo di battaglia di questo programma, ossia gli sprechi delle regioni. Voi, insomma, mi ricordo che citammo il caso di un consigliere suo che era indagato per spese assurde, mi riferisco a Gennaro Salvatore, che è stato anche agli arresti domiciliari, ex capogruppo del nuovo PSI, Caldoro presidente. Anche qui attenzione, purtroppo questo è un dato comune a tutto il paese, non parliamo dei vibratori dell'Alto Adige per cortesia, però libri scolastici, articoli per la casa, gomme da masticare, occhiali da vista, sigarette, gioielli, caschi e guanti per motociclette, una bombola del gas, farmaci, dolciumi e caffè e addirittura una tintura per capelli, 100.000 euro di rimborsi che la regione ha pagato. Adesso però Gennaro Salvatore è indagato. Vorrei più concentrarmi sull'inutilizzo di alcuni fondi, anche perché oggi il Süddeutsche Zeitung, che non è mai stato tenero con l'Italia, cita Pompei come la vergogna nazionale assieme all'Aquila, misura del malfunzionamento dello Stato italiano. Ora, io con i tedeschi non ho nessuna simpatia, diciamo, dal punto di vista delle politiche economiche, però è chiaro che tutto questo poi alimenta, come il vice presidente Tajani sa, un atteggiamento verso l'Europa del Sud a dire non diamo i soldi, non rompiamo i vincoli, perché questi soldi non li sanno utilizzare. Caldoro. Ma intanto avrei pure un approccio garantista, io sì. vedrò probabilmente tante persone che poi saranno assolte e poi dovremo chiedergli scusa. Nello stesso tempo verifichiamo le cose, siamo in sede di indagine, questo paese sta diventando giustizialista, chi avrà colpe dovrà pagare, sia ben chiaro, però non diamo giudizi prima, perché vedrete che ci saranno delle sorprese, poi ci saranno quelli che chiaramente avranno e si acquisiranno responsabilità. Noi i costi operativi li abbiamo tagliati tutti, prima degli altri, quindi abbiamo le carte in regola, dimezzati gli stipendi, non so quanti in Italia abbiano fatto questo, non certo i parlamentari, ma noi l'abbiamo fatto, via tutti i benefit, quindi noi abbiamo le carte in regola, poi i problemi vanno. Io sono anche più drastico, io penso che le regioni vadano sciolte, io l'ho detto in tempi non sospetti, non solo legate alle vicende, sciolte e riformate, perché il problema non è che se governano meno bene dello Stato, in molti casi vediamo Pompei e peggio lo Stato, quindi l'amministrazione centrale è peggiore in molti casi, però non è questo, non dobbiamo fare la gara, dobbiamo vedere chi funziona, quali sono i modelli che funzionano, e la verità è che non possiamo tenere Stato e Regione che fanno le stesse cose, in questo paese non si può permettere due Stati. Allora, le regioni devono essere solo enti di programmazione, non devono gestire e fare solo coesione territoriale, grandi regolatori di diritti territoriali, non devono avere soldi da gestire. Lo Stato e i comuni gestiscono, noi abbiamo fatto la materia concorrente, abbiamo rovinato la Costituzione e oggi teniamo troppe lungaggini. Quindi io sono per la riforma dell'articolo 5. È troppo poco coraggiosa questa di Renzi, l'abbiamo vista questa mattina, è una buona fase di partenza, bisogna essere più innovativi, più veloci, credo che bisogna avere più coraggio in quella riforma e arrivare allo scioglimento delle regioni con la loro riorganizzazione in macro aree, quindi macro regioni, che facciano solo programmazione e pianificazione, quello che la Costituzione quando le ha fatte nascere lo ha definite. Oggi tutti vogliono gestire e gestiscono tutti male. Le macro regioni le chiede anche Grillo? Ben ultimo che è arrivato, voglio dire, poi ci sta anche qualcun altro che lo dice. Su questo è innegabile, abbiamo dato qualche settimana fa, è innegabile, se potessimo mostrare in radio i grafici, si vedrebbe come l'esplosione del debito pubblico italiano coincide in maniera drammatica con l'istituzione delle regioni italiane, ma non subito, ma lentamente il raddoppio delle funzioni e quindi non diciamo la sussidiarietà e la complementarietà, ma l'assoluta sovrapposizione delle funzioni fa esplodere il debito pubblico. Vorrei chiedere però al vicepresidente degli industriali di Napoli, perché secondo lei è scomparso il Sud con i casi di eccellenza che ricordavamo anche prima, perché parliamo di Napoli, abbiamo ricordato i gruppi di armatori ma anche il capo spalla, quindi tutta la moda maschile, casi di eccellenza nel settore agroalimentare, vitivinicolo, e perché il Sud è scomparso dal dibattito nazionale, anche perché è vero che questa crisi non livella, ma il divario è aumentato, i dati che ricordavo all'inizio sono drammatici, un punto di più di calo del PIL in media rispetto alla media nazionale? Allora, guardi, sicuramente manca una visione generale dello sviluppo di quest'area nel quadro della crescita generale del paese. Il Sud non viene più visto come un'opportunità, non è stato mai visto come un'opportunità, malgrado le sue eccellenze, eccellenze nell'automotive, eccellenze nell'aerospazio, eccellenze nella meccatronica. È un paese che non guarda ai giacimenti culturali del Sud, che sono eccezionali. Citavamo Pompei, ma la querela va solo sul mecenatismo sì, mecenatismo no, e con risorse che non si riescono a spendere. Un mecenatismo che potrebbe sicuramente aumentare se ci fossero gli sgravi fiscali che in tanti altri paesi sono previsti. Un nord, ma anche una classe dirigente che non guarda al sud come, non è più un'espressione geografica, è una piattaforma, è un molo che sta nel cuore del Mediterraneo e incrocia l'economia del Far East con anche la locomotiva occidentale dell'America che riprende. Siamo nel cuore del Mediterraneo, con un Nord Africa che brucia, con i paesi del Medio Oriente che hanno problemi, eppure gli investitori non vengono ad investire. Allora dobbiamo tornare a quei quattro punti di criticità, che sono la burocrazia, i tempi della giustizia civile, e adesso anche una fiscalità che cambia in corso d'opera. Eccesso di burocrazia, come dicevo prima. Ecco, io ricordavo anche l'iniziativa di domani, 600 incontri B2B, adesso ne parleremo col vicepresidente Tajani, però una cosa la vorrei chiedere al governatore Caldoro, anche se non è di sua pertinenza diretta. Noi raccontammo come caso emblematico che cosa è successo lo scorso 4 marzo agli scavi archeologici di Santa Maria Capovetere, non so se è presente la notizia, insomma lì c'è un imprenditore, Bruno Zarzaca, che è creatore di Amico Bio, invita 50 tour operator, quindi gente che poi deve portare i turisti a visitare la parte archeologica dove c'è il famoso Mitreo, e la porta è chiusa, e gli viene detto che l'usciere è in pausa pranzo, e lui riporta i 40 tour operator da tutta Italia con un pacchetto che era interessante anche tutta Italia e Europa. Visiti il Colosseo, poi prendi l'alta velocità, vieni a Napoli, visiti il Mitreo, cioè tutto quello che poi serve concretamente. Dopo pranzo si ripresentano davanti alla porta del Mitreo e di nuovo gli uscieri non ci sono. A quel punto i tour operator hanno chiesto anche i danni. Allora, in questi casi, fermo restando che sono dipendenti pubblici, è giusto o no il licenziamento? Ma intanto questo è successo anche a Pompei, quindi non solamente a Santa Maria. Abbiamo avuto un caso, tra l'altro, purtroppo allarmante. Sì, beh, insomma, sul pubblico impiego qualcosa bisognerà fare, non c'è dubbio. Ognuno deve fare il proprio lavoro, deve far bene, con sacrificio. Se no è meglio che molte attività, soprattutto quelle di servizio. Quindi noi dobbiamo tutelare i beni, quindi non è che bisogna privatizzare. Che vuol dire privatizzare? Bisogna però liberalizzare dove il privato sa far meglio del pubblico. E se deve organizzare un contesto territoriale di servizi, il privato lo fa meglio del sistema pubblico o della PA, cioè del dipendente pubblico. Poi il bene va tutelato, non dobbiamo spaventarci. È come quando parliamo dell'acqua pubblica. L'acqua deve arrivare bella, pulita, nei rubinetti, nelle case dei cittadini. Chi ce la fa arrivare? Arriva da sola? No, c'è un'organizzazione, c'è una rete. Che chi la fa, chi la costruisce, chi la realizza, chi la gestisce? Lo Stato, il pubblico? Per la parte del tutela del bene sì, ma non dell'organizzazione che deve essere data ai privati. Quindi io sono convintissimo che la PA deve fare un passo indietro dove il privato riesce a lavorare meglio. Quindi lei oggi è per la riduzione di tutto, riduzione del ruolo delle regioni, riduzione della PA, prendiamo atto. Per semplificare. Per semplificare. Tajani, dopo le informazioni sul traffico, invece l'obiettivo di questa missione, perché poi alcuni ascoltatori mi dicono ma insomma state disegnando un'immagine del Sud troppo ottimistica, mettiamola così. Siccome raccontiamo, perché siamo obbligati dalla cronaca, un Sud quasi sempre in chiave negativa, forse anche andare a non, diciamo, tirarsi qualcosa sugli organi riproduttivi, ma cercare di vedere se esistono potenzialità, forse è più nuova come chiave, se no non c'era bisogno di fare passione Sud, continuiamo con la cronaca nera o la cronaca degli sprechi o delle malversazioni, ma si andava poco oltre un ritratto che, ripeto, delle volte è anche ingeneroso, perché poi si parla di Sud, ma ci sono 10-20 sud diversi, anche questo c'è un po' di provincialismo nell'approccio. Allora, vicepresidente Antonio Tajani, lei conosce anche il nostro Mezzogiorno, ma domani questi 600 incontri B2B, che obiettivo hanno? Perché poi quando raccontiamo certi casi, leggiamo la Süddeutsche Zeitung, è chiaro che un po' di depressione ti viene, perché poi uscire dai luoghi comuni è difficile, a maggior ragione se con alcuni casi questi luoghi comuni li rinvigorisce, rinfocoli. Ma noi siamo arrivati sotto la bandiera della Commissione europea con 600 imprese a Napoli. 600 imprese italiane, europee ed extraeuropee. L'obiettivo di questi imprenditori è capire se, come e dove fare investimenti, se, come e dove organizzare accordi con le imprese locali. È un impegno che avevamo preso con il presidente Caldoro 2 mesi fa, lo avevamo annunciato e abbiamo mantenuto questo impegno, che è frutto di un'altra scelta. 1 anno e mezzo fa organizzammo proprio qui a Napoli, con il sostegno del presidente Caldoro, una riunione di tutti i presidenti delle regioni dell'Italia meridionale e della Sardegna. Obiettivo: puntare sulla crescita di questa parte di Europa, perché la crescita di questa parte d'Europa è determinante per la crescita di tutta l'Europa meridionale e anche di una parte importante dell'Italia e anche del nord dell'Italia, per i collegamenti che esistono. Bene, abbiamo mantenuto gli impegni, non abbiamo organizzato solo una manifestazione per fare dei proclami, siamo qui con 600 imprese che vogliono investire. Dove? Vogliono investire nella regione Campania. Sono qui e ne organizzeremo un'altra fra qualche giorno a Palermo e a Catania, altri imprenditori. Ci avete copiato l'iniziativa, Passione Sud? No, veramente abbiamo organizzato queste missioni in giro per tutto il mondo. Facile dirlo adesso, Togliani. No, scherzo, comunque. Sto scherzando, si figuri. No, ma sto scherzando. Ma mi dica una cosa però, in che settore, visto che voi avete già un perimetro delle application, delle domande, c'è qualche settore di forza? Citavamo l'agroalimentare, tutto il settore I settori sono molto ampi, ci sono grandi imprese, piccole e medie imprese, piccolissime imprese, medie imprese. Queste missioni per la crescita, che sono nate con l'idea di internazionalizzare le imprese europee, infatti abbiamo portato le imprese in giro per tutto il mondo, poi, siccome l'Europa non può essere solo quella dei sacrifici, ma anche quella della solidarietà, stiamo accompagnando imprenditori europei nelle regioni d'Europa dove c'è una forte disoccupazione giovanile. Siamo stati in Portogallo, siamo stati in Grecia, saremo non soltanto in Italia, ma anche in Estremadura, in Andalusia, in Spagna. E come si organizzano? Prima c'è questo evento, quindi incontro con la politica locale, con i responsabili, per capire quali sono anche gli investimenti che ci sono, quali sono le opportunità. C'è stato un intervento interessante del presidente Caldoro, hanno parlato i rappresentanti dell'industria, hanno parlato i rappresentanti delle camere di commercio, delle organizzazioni dell'artigianato. E domani, dopo una serie di tavole rotonde tecniche su come poter anche utilizzare gli strumenti comunitari, come poter organizzare joint venture, ci saranno credo più di 1000 B2B, incontri faccia a faccia, dove poi si concretizza si concretizzano le cose da fare. Questo mi pare che sia un modo moderno di fare politica industriale, e spiego. La seconda tappa è un'altra missione più mirata, limitata ad aziende che sono richieste dal territorio, dal governo locale o dal mondo industriale locale per fare scelte precise. Adesso c'è un ampio ventaglio, dopo restringeremo chi avrà fatto business adesso, naturalmente continuerà a farlo, ma se c'è necessità di accompagnare industrie di settori particolari, noi lo faremo come lo stiamo facendo in tutto il mondo. Ecco, vicepresidente Prezioso, per concludere, visto che si diceva in apertura del programma che quello che manca in questo caso in Campania e nel napoletano non sono i casi di eccellenza, ma è, diciamo, la cerniera tra i casi di eccellenza, lo spazio vuoto e il resto, mentre in altre aree del paese questa pipeline, questa filiera del valore la vediamo. Queste iniziative possono, secondo lei, arrivare a colmare, a creare quantomeno stimoli per colmare questa cerniera? Sì, devono essere accompagnate anche da una sapiente gestione di questa tornata di fondi strutturali e fondi ex coesione, fondi ex FAS di coesione territoriale, sono ben 21 miliardi di euro, a riprogrammazione 2014-2020. Perché nella concentrazione tematica di obiettivi che si era prefissato anche Squinzi in giro per l'Italia, sta appunto raccogliendole, ma comunque c'è un 5% da destinare a questa sorta di appunto di di reinterpretazione delle grandi aree metropolitane attraverso misure che vanno dal dissesto idrogeologico, ma dalle reti di acqua alla scuola 2.0, quindi alla cogenerazione e trigenerazione. Bisogna mettere in rete tutto questo perché si possa parlare finalmente di ambiti metropolitani che possono essere anche attrattivi per chi viene dall'estero. No, io vi garantisco che noi, anche quando non saremo al sud, continueremo a guardare con attenzione, perché lo facciamo sempre, come verranno spesi questi soldi, e a denunciare quando i soldi vengono spesi male o non spesi. Delle volte non so quasi se sia peggio spenderli male o non spenderli, perché poi quelli spesi male alimentano anche clientelismo e corruzione. Grazie, ma restate con noi, perché adesso la borsa, al governatore della Regione Campania Stefano Caldoro, grazie anche al vicepresidente degli industriali di Napoli e al vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. La borsa oggi, abbiate pazienza, siamo in viaggio con Passione Sud, la facciamo a un orario un po' diverso. La borsa. Chiara Di Cristoforo, Radio Coro, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, dimmi due o tre cose, non abbiamo molto spazio in più, però la Popolare Emilia Romagna più 4,60%, di nuovo la Banca Pop Milano più 4,20%, sì. Tra l'altro anche il Monte dei Paschi più 1,60%. Sì, oggi le banche sono state in luce per buona parte della giornata. Il listino in realtà il listino milanese è stato in rialzo per tutto il giorno, chiude in calo invece dello 0,9. Le popolari in luce, soprattutto la Popolare dell'Emilia Romagna e la Popolare di Milano, come hai detto tu, all'indomani dei conti del 2013 e della conference call. Le indicazioni sono piaciute al mercato, continua la corsa della Popolare Milano, che è il miglior titolo dell'Eurostox 600 dall'inizio dell'anno. Piacciono le indicazioni del nuovo management, la banca è ritornata in utile dopo la perdita di 430 milioni del 2012, siamo a 30 milioni di utile, l'aumento di capitale ci sarà tra fine aprile e inizio maggio, quindi continuano a correre questi titoli. A proposito di conti, oggi sono usciti anche quelli delle generali, utile a 1,9 miliardi nel 2013, è il miglior utile degli ultimi 6 anni per il Leone di Trieste. La generazione di cassa supera i 2 miliardi e 100 milioni, la borsa reagisce in maniera molto molto tiepida, nel senso che le generali perdono lo 0,80%. Che è successo oggi su Unicredit meno 3% e Buzzi Unice meno 3,20%? Sono titoli che erano andati molto su, Unicredit era stata in positivo in mattinata. Oggi si sono scattate proprio delle prese di beneficio sui titoli che avevano corso di più nelle ultime sedute, Unicredit è uno di questi. Cito anche Enel dopo i conti di ieri, più 1,80%, Mediobanca più 1,60%, mentre tra chi più ha perso di nuovo il lusso, non è un inizio d'anno positivo per il lusso, devo dire che era il titolo, era il settore migliore l'anno scorso e oggi quello più penalizzato, World Duty Free meno 2,90%, Hux meno 2,30%, Tod's meno 2,30% e ancora Ferragamo meno 1,80%, mentre tra i migliori e peggiori in assoluto, vado rapido perché il tempo stringe, l'ex Chiaparelli Kinexia più 24,80% e Innovatech più 13,20%, RCS dopo il piano presentato agli analisti, il gruppo Rizzoli Corriere della Sera guadagna il 7,16%, mentre Realizzi dopo giornate di botto per la centrale latte di Torino meno 22% e per la Roma Calcio meno 7,20%. Un'ultima notizia prima di chiudere, nel ringraziare Chiara Di Cristoforo, l'Europa, Tajani, è diversa, perché oggi escono i dati della BMW. Insomma, la BMW l'anno scorso ha fatto un anno da record, 5 miliardi e 300 milioni di utili, più 4,5%. E la Volkswagen, a dimostrazione che c'è un'Europa a due velocità, bravi loro, ci mancherebbe, già nel 2014 hanno raggiunto l'obiettivo di 10 milioni di auto vendute e andranno a chiudere come gruppo Volkswagen un altro anno da record. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo da Napoli, domani siamo alla Fiera d'Oltremare per parlare del mondo del commercio e dell'artigianato, quindi dall'industria ai servizi al commercio. Vi lascio la nostra programmazione e intanto l'auguro di una buona serata.